greatest of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Did you always know that you were a writer? I think that's hard to say. When I was a kid, I used to write, and then when I became a teenager, I didn't do much of anything. Are you passionate? La voce di quest'uomo che dice alla domanda di Oprah se ha sempre pensato di fare lo scrittore, risponde: quando era ragazzo, effettivamente questa cosa di scrivere, insomma, lo affascinava. È Cormac McCarthy. Cormac McCarthy è l'autore di una serie di libri che stanno forse meglio di tanti altri raccontando l'America in questi ultimi anni, e poi approdano anche a versioni cinematografiche di grande prestigio e di grande successo. Non è un paese per vecchi, è anche quel The Road, che è destinato un po' a essere il caso cinematografico di queste settimane. Beh, oggi proviamo ad ascoltare, a raccontare l'America partendo così da un piccolo angolo di cronaca che però ci piace assai e riguarda una vecchissima macchina da scrivere, per la precisione una Olivetti Lettera 32, sulla quale il nostro amico Cormac dovrebbe aver battuto, il conto l'ha fatto lui, quindi noi ci fidiamo, circa 5 milioni di parole in un periodo di circa 50 anni, anche se lui sostiene di averla comprata per $11, usata peraltro nel 58, mentre i critici, gli storici della sua stessa vita e carriera dicono no, l'ha comprata nel 63, prima usava una Royal che però era più grossa, lui voleva una macchina da scrivere piccola, l'ha usata per 50 anni, l'ha sfondata, ci informa nell'expertise con cui garantisce che la macchina è proprio la sua, che non l'ha mai pulita se non di tanto in tanto dandogli una botta d'aria compressa quando andava dal benzinaio, la portava al benzinaio, prendeva l'aria compressa, quella di gonfiare le gomme, e ce la sparava dentro per levare un po' di polvere dalla macchina da scrivere, che adesso è all'asta per finanziare i suoi amici del Santa Fe Institute, una fondazione del New Mexico dove Cormac McCarthy vive. È all'asta e si sospetta che farà anche parecchi soldini con questa vendita. Christie, che è incaricato di mettere all'asta la macchina da scrivere su cui ha scritto tutti i suoi romanzi, tutte le sceneggiature, i racconti, le lettere, gli articoli, si prevede andrà in vendita tra 15 e 20 mila dollari. Secondo me ne fa di più, poi vediamo se ci ho azzeccato. Comunque è una storia interessante che si conclude con la notizia che comunque tutto ciò avviene perché un amico gli ha regalato una nuova macchina da scrivere, stesso modello, stessa marca, da cui, come dire, ripartire e continuare. Cormac tra l'altro ha 76 anni, niente per lui, niente computer. Mentre invece un computer, un laptop è il protagonista di un'altra piccola storia che ci piace, però raccontata dalle cronache, in questo caso da CNN, nell'America che si sveglia stamattina, ed è quella di un signore che si chiama Michael White, vive perso tra le montagne della Georgia, in un posto che si chiama Stone Mountain. Lui ha 51 anni, è un impiegato, ma gestisce anche un sito dal suo piccolo computer portatile, un sito che è diventato un punto di riferimento nell'America d'oggi. Si chiama icasualties.org ed è il sito su cui in modo certosino, preciso, attento, corretto, il signor White registra le vittime, tutte le vittime della guerra in Medio Oriente. Viene tenuto il conto naturalmente delle vittime americane, di quelle delle truppe della coalizione, dei mercenari vari ordini ordine e grado, e dei civili in Iraq e in Afghanistan. In un certo senso il signor White, una volta che questi uomini perdono la vita, almeno per quello che riguarda i militari americani, li onora, li ricorda, rende meno vano il loro contributo. Primo piano. The president will be pretty clear about how we're moving forward with Afghanistan and Pakistan. I think you can be assured that the president will talk about the fact that this is not an open-ended. Questo è l'uomo che parla per conto dell'uomo che parla, ovvero Robert Gibbs, il portavoce di Barack Obama, che dice quello che Barack dirà questa sera nel suo discorso a West Point, discorso sulla situazione in Afghanistan, discorso molto atteso nel quale il presidente americano annuncerà il numero dei rinforzi nei rinforzi militari statunitensi nel paese e dovrebbe anche delineare i tratti salienti della nuova strategia degli americani e dei loro alleati. La cifra ormai è pressoché ufficiale, è di 34.000 nuovi soldati che verranno inviati nel paese, che vanno sommati ai 22.000 già inviati durante il 2009, ovvero durante la presidenza di Obama, e quelli già presenti, per un totale che supera i 100.000, quindi uno sforzo eccezionale degli americani in questo frangente. Tra l'altro Obama chiederà ai suoi paesi alleati uno sforzo per altri 6.000 uomini, in modo da poter così contentare in pieno la cifra di 40.000, 34.000 più 6.000 fa 40.000, il totale dei rinforzi è esattamente quello che il generale Stanley McChrystal gli aveva chiesto alcuni mesi or sono. Il tempo per dire sì alla richiesta è stato molto lungo, ma alla fine la richiesta è stata pienamente evasa. Obama dirà anche che l'impegno americano non è a tempo indeterminato, dovrebbe anche delineare una exit strategy, ma per quello che può valere il delineare una exit strategy, si fanno degli accenni, si fanno dei propositi, molto più in là è difficile andare. Obama dirà: siamo lì per addestrare le forze di sicurezza locali perché possano affrontare resistenza. In sostanza è un momento cruciale della presidenza Obama, almeno per quello che riguarda la politica estera. Gli esperti dicono che ogni parola pronunciata stasera dal presidente verrà pesata con particolare attenzione, perché alla fine quello che si vuole capire è se Obama è ormai entrato nella logica di vincere la guerra in Medio Oriente, in Afghanistan, nella fattispecie, come chiedeva George W. Bush, o se invece, come sosteneva in campagna elettorale, la sua priorità sarà quella fondamentalmente di uscirne nel modo più indolore, ma anche più decente possibile. A questo proposito vi voglio leggere un estratto di un articolo pubblicato oggi dal New York Times a firma di uno degli opinionisti più autorevoli del quotidiano di New York, si chiama Bob Herbert. Prende una posizione estremamente decisa sulla questione Afghanistan, una posizione contro le scelte presidenziali, però l'articolo mi sembra segua una logica stringente che vale la pena di citare, magari anche solo per ragionarci sopra. L'articolo di Herbert è intitolato "Un errore tragico". Scrive Herbert: io odio la guerra, diceva Dwight Eisenhower, come solo un soldato che l'abbia vissuta può odiarla, come chi abbia visto la sua brutalità, la sua futilità, la sua stupidità. E diceva pure Eisenhower: ogni fucile che viene fabbricato, ogni nave da guerra che viene varata, ogni missile lanciato, nel suo significato più profondo equivale a un furto a quegli affamati che non vengono nutriti e a quelli che hanno freddo e non vengono vestiti. Io suppongo che non impareremo mai. Il presidente Obama apparirà stasera in TV per annunciare la sua intenzione di mandare decine di migliaia di truppe americane aggiuntive in Afghanistan a combattere un conflitto che dura ormai da quasi tutto il decennio e che finora è stato un fallimento. Dopo aver intrapreso un lungo periodo di consultazioni altamente ritualizzate, il presidente è approdato alla decisione che non è mai stata molto in dubbio e che si rivelerà un tragico errore. Si trattava anche per il presidente dell'opzione più facile. Sarebbe stato più difficile per Obama guardare questo nostro paese inguaiato dritto negli occhi e spiegargli che nel nostro interesse sarebbe giunto il momento di cominciare a smantellare il permanente stato di guerra lasciatoci in eredità da Bush e Cheney. Sarebbe servito del vero coraggio per il comandante in capo per smettere di ficcare le nostre giovani truppe nel tritagarne dell'Afghanistan e fronteggiare il terribile costo che questa guerra ci sta imponendo, sia in vite umane che in mille insidiosi modi per noi tutti come nazione. Mai tanti soldati come quest'anno si sono suicidati, eppure i militari oggi riescono a soddisfare i loro bisogni di reclutamento perché i giovani non riescono a trovare altri lavori. Gli Stati Uniti sono sono in bolletta, il sistema scolastico è deteriorato, l'economia perde pezzi, i senza casa e i poveri sono in aumento, eppure noi ci stiamo ancora a preoccupare di ricostruire la nazione afghana, mandando laggiù dei ragazzi con preoccupazioni economiche, ciascuno dei quali, e sono decine di migliaia, alla fine ci costerà all'incirca $1 milione all'anno. Non faccio altro che sentir dire che gli americani sono angosciati dal gigantesco deficit dei nostri budget. Ebbene, l'idea che si possa mettere un freno a questi budget in costante espansione mentre si è impegnati in due guerre in nome delle quali ci si rifiuta di alzare le tasse è un'assurdità bella e buona. Ci potrebbero credere dei bambini, degli adulti. No, davvero. Started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Buongiorno America. All right, we want to go back now to the breaking news we just told you about. Police in Seattle shot accused cop killer Maurice Clemens. He is dead this morning. Clemens accused of gunning down four officers a few days ago. Detective Ed. Questa è la breaking news di pochissimi istanti or sono. Stanno battendo tutte le televisioni, tutte le agenzie americane la notizia. Noi avevamo preparato un servizio di altro tenore per informarvi al riguardo della fine, della sorte, della caccia all'assassino di quattro poliziotti, vi ricorderete nella giornata di ieri hanno stati freddati quattro poliziotti da questo uomo di colore, Maurice Clemens, 37 anni, un lungo periodo di carcerazione per lui, poi una grazia in attesa da parte dell'ex governatore della Arkansas Mike Huckabee, ma poi una vita che aveva ripreso a scorrere nell'ambito del crimine e sembra anche nell'ambito di uno stato mentale tutt'altro che solido. Maurice Clemens andava in giro dicendo di essere Gesù Cristo, di poter volare e quant'altro, di fatto aveva covava un profondo rancore nei confronti dei poliziotti, delle forze dell'ordine americane e era entrato in un caffè facendo fuoco su quattro poliziotti seduti a un tavolino, freddandoli tutti e quattro. Era cominciata una enorme caccia all'uomo per le strade di Seattle, era stata circondata dalle truppe speciali una casa, la casa dove sembrava risiedere Clemens, l'assedio però era andato a vuoto allorché dopo l'irruzione si era scoperto che Clemens era riuscito a scappare in tempo, poi si era appurato che l'uomo fosse ferito, addirittura due colpi d'arma da fuoco al petto l'avevano ferito. Alla fine esattamente alle 2 di notte, quindi sono 9 ore di fuso, alle 11, quindi 2 ore e mezzo poco più or sono, Clemens è stato individuato, circondato, fermato da una unità della polizia di Lakewood, 40 miglia a sud, 70 chilometri a sud di Seattle, non si è fermato, ha opposto resistenza, i poliziotti hanno sparato, Maurice Clemens è stato ucciso e si chiude così questa storia di cronaca nera, si chiude nel più come dire tragicamente cinematografico dei modi, no? La caccia si è conclusa e i poliziotti hanno ritenuto di arrivare fino al gesto finale perché evidentemente le contingenze lo richiedevano. Resta sempre questa implicazione scomoda di Mike Huckabee, un possibile candidato per il 2012, ne parleremo tra l'altro domani, un'ombra per questa grazia forse sventatamente concessa in favore di Clemens. They were booked to be our guests tonight on this program. They postponed their appearance And they say they are anxious to tell their story. Questa è la voce di un conduttore televisivo che ci resta male, perché sarai pure Larry King, sarai pure il numero uno, sarai pure quello a cui tutti non dicono no, ma questi due, che evidentemente sono più tenaci e più, come dire, istradati al loro desiderio, dal loro desiderio di fare quattrini su questa questione, hanno detto no anche a Larry King e non sono andati a farsi intervistare. Stiamo parlando della ormai celeberrima coppia degli imbucati, quelli che si sono riusciti a infiltrare alla Casa Bianca. Si chiamano Michelle e Tarek Salahi, sono riusciti a entrare in quello che ormai viene chiamato il Dinnergate, no? il pranzo di gala della Casa Bianca in onore del primo ministro indiano, 400 invitati, ma in realtà erano 402. La storia si sta sempre più complicando, perché è saltata fuori una corrispondenza fitta via mail tra la coppia Salahi e questa signora Michelle S. Jones, assistente particolare del segretario della difesa Robert Gates, quindi siamo nelle alte sfere del Pentagono, che era amica del loro avvocato, intratteneva rapporti, diceva, parlava di questo, insomma. Qualcuno arriva a sostenere sui media americani che forse i due pensavano di essere invitati. Secondo me loro non pensavano di essere invitati. Loro, come dire, ci hanno lavorato seriamente sulla questione, che sta creando adesso disastri di ogni ordine e grado e dimissioni a raffica. L'ultima a salutare e ad andarsene si chiama Katie Hargraves, che è la funzionaria incaricata di gestire gli inviti della Casa Bianca. Bene, di messa anche lei dopo che era stata ampiamente retrocessa dalla sua posizione. Ma chi c'è veramente di mezzo sono i servizi segreti, quelli che dovrebbero badare alla sicurezza del presidente Obama. Una figura così peregrina non era mai stata fatta, e anche lì, come dire, le teste salteranno. Via. Prepare for the tiger should have used a driver jokes, for the headline puns, for the instant polls. Is Tiger hiding something, STMZ? Per uno che è sempre abituato a vincere come Tiger Woods, non sono proprio giornoni di quelli memorabili, questi qua. Ha dovuto addirittura ha deciso di rinunciare al World Challenge, il torneo di golf a invito che lui stesso organizza, ma non ci va perché si vergogna, perché troppi guai circondano la sua vita e la sua figura, e troppi sponsor tra l'altro se ne stanno andando dal suo portafoglio dopo la storia dell'incidente in macchina, le cui motivazioni non sono per niente chiare, ma insomma sembra proprio che la moglie c'entri parecchio e che le corna c'entrino ancora di più. In questa storia trash, con la quale tragicamente chiudiamo la puntata di oggi, è spuntato però il personaggio che tutti ambivamo vedere. Si chiama Rachel Huchitl, è arrivata, come la chiamano i giornali americani, la bionda al centro dello scandalo, è sbarcata all'aeroporto di Los Angeles. Chissà perché proprio oggi va a sbarcare all'aeroporto di Los Angeles, ma di fatto è sbarcata con dei magnifici Ray-Ban a coprirne gli occhi, e sarebbe l'amante in sostanza di Tiger Woods, e quella per cui la moglie ha preso a colpi di mazze da golf la sua macchina e lo stesso Woods in persona. Rachel, strano personaggio, 34 anni, lavorava per la rete Bloomberg nei locali notturni New York e Las Vegas. Esiste una sua fotografia che la rappresenta in lacrime davanti al disastro, no, del Ground Zero, delle torri. Sarebbe morto nell'attacco alle torri il suo fidanzato. Lei era una di quelle che chiedeva notizie: avete visto dov'è finito questo signore rappresentato nella foto? Questo è il presente americano, spettacolo, realtà, vita e finzione che si mescola tutto assieme. E tutto finisce nel grande imbuto della televisione, poi nell'imbutino della radio e poi nell'imbutino di Buongiorno America, dove ci sono io, che sono Stefano Pistolini, e c'è Gloria Guerrera in redazione, e ci sono Valerio Rocchetti in regia a Roma e Carmelo Lauricella a Milano. La nostra mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, andiamo in replica dopo mezzanotte, oppure ci ritrovate domani dopo 1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.